al tour con Ivan Basso. Ed eccoci all'appuntamento con il Tour de France oggi sull'Alpe d'Huez. Il santuario vince il giovane francese Roland, che raggiunge e poi stacca Sanchez e Contador all'attacco fin dalle prime battute. I due Schleck, Evans e Cunego, limitano i danni un minutino per loro. Andy Schleck è la nuova maglia gialla del Tour. Da questi un minuto di distacco per Ivan Basso, che ci racconta la sua Alpe d'Huez, la sua tappa. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Ma sicuramente non serve che dica che sia una giornata negativa. Per me è stata difficile proprio già dalle prime pedalate, le sensazioni non erano esattamente quelle che volevo. Io in questo momento è prematuro fare un'analisi e soprattutto non voglio assolutamente prendere scuse o cose del genere. Io credo che in questo momento bisogna innanzitutto pensare a domani, e c'è una cronometro, sono nei primi 10 in classifica, quindi è giusto onorare questo tour fino alla fine. È chiaro che le cose non sono andate esattamente come tutti ci si aspettava, ma ci sono anche delle cose che dobbiamo valutare, come l'incidente che è stato prima, insomma tante cose, quindi in questo momento la prestazione non è esattamente quello che volevamo, però bisogna poi guardare le cose con calma. Ivan, il tour resterà comunque nei tuoi pensieri? Ma sicuramente, perché insomma io non è il mio ultimo tour, quindi io credo che ci sono atleti che per anni hanno tentato di vincerlo, non ci sono riusciti e poi magari alla fine ce l'hanno fatta, quindi bisogna comunque continuare a crederci e fare un'analisi di quello che probabilmente non è stato fatto nel modo giusto, chiaramente non per negligenza da parte mia e da parte della squadra, su questo non c'è ombra di dubbio. Noi abbiamo fatto il massimo impegno, compreso oggi, perché con le condizioni che ero sarebbe potuto andare molto peggio, quindi bisogna essere realisti, dare merito a chi è andato più forte e basta, e voltare pagina. Un'ultima cosa, Ivan, ti chiedo un pronostico. Presumibilmente sarà un testa a testa tra Andy Schleck e Cadel Evans. Guardandoli sulla strada, chi vincerà il tour? Ma è molto difficile perché è un tour particolare, un tour ad esempio Samuel Sanchez ieri ha avuto una giornata non buona, oggi è andato molto bene, Contador idem, è andato male ieri, è andato bene oggi, quindi io credo che dipenderà molto, se la giocheranno per pochi secondi, è una lotta tra loro due. Grazie Ivan Basso, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. E l'appuntamento con il tour e con Ivan Basso naturalmente per domani pomeriggio, buona serata.